ieri pomeriggio ci hanno contattato dal Ministero, invitandoci appunto a partecipare a questo incontro. Noi ci siamo confrontati al nostro interno, abbiamo formato una delegazione e abbiamo deciso insomma di sfruttare questa occasione. Quindi insomma siamo partiti alla volta di Roma, c'è stato appunto l'incontro al Ministero del Lavoro. Noi abbiamo portato al Ministro una lettera che abbiamo anche reso pubblica insomma sui nostri canali, diciamo, in cui dicevamo delle cose abbastanza semplici, cioè una lettura generale, quella insomma che sono le condizioni di lavoro, di precarietà oggi per i giovani, e dall'altra insomma entrando nello specifico sono insomma un po' le nostre condizioni di lavoro quotidiane e di rivendicazione. Abbiamo appunto raccontato al Ministro quello che è stato il percorso fatto a Bologna in questi mesi di mobilitazione, di contrattazione metropolitana e anche no e poi di scrittura della carta. Il Ministro, dobbiamo dire che insomma ci ha ascoltato attentamente, ha preso appunti, allo stesso tempo insomma ha dichiarato che parte sua, da parte loro, insomma c'è intenzione di aprire su questa tematica un confronto che porti anche in Italia insomma una regolamentazione di questo settore del mondo del lavoro. Noi abbiamo detto in maniera chiara che vogliamo aprire una contrattazione nazionale, quindi un tavolo vero, in modo democratico, con tutte le componenti coinvolte, ma i primi a essere a quel tavolo devono essere appunto le rappresentanze dei lavoratori, e cioè appunto noi, come eravamo oggi, erano presenti anche dei riders di Roma. Però allo stesso modo insomma abbiamo chiesto di invitare a questi confronti al tavolo anche insomma le altre rappresentanze delle altre città, da Milano a Torino eccetera. Quindi insomma su questo siamo rimasti che da parte loro c'è interesse e volontà, almeno così insomma è stato detto a parole. Tra una settimana saremo riconvocati, capiremo un po' meglio insomma quello che ci propongono, quali sono insomma gli strumenti e i vari step. Noi diciamo che usciamo anche abbastanza fiduciosi, dopodiché appunto alle parole devono seguire fatti. A proposito di parole, ci sono delle agenzie che dicono insomma che Di Maio ha individuato per uno dei punti delle vostre rivendicazioni lo strumento legislativo per inserire ad esempio la paga minima oraria. No, questa sì è una insomma delle nostre rivendicazioni. Noi lo diciamo in modo chiaro, le piattaforme stanno andando sempre di più con una paga appunto a consegna, a cottimo, fino ad arrivare al cottimo assoluto. Questa cosa insomma non può essere accettabile, quindi insomma noi chiediamo una paga fissa oraria dignitosa con riferimento appunto ai contratti collettivi nazionali, come tutta un'altra serie di punti sono insomma quelli che abbiamo espresso in modo chiaro in questi mesi, non solo a Bologna appunto. Dall'altra insomma sicuramente si dovrà avviare un percorso di confronto, di contrattazione, e poi anche con i tempi che servono magari appunto arrivare ad una legge nazionale che finalmente regoli insomma questo settore. Abbiamo visto la settimana scorsa la firma della Carta dei diritti qui a Bologna con la diserzione, diciamo così, delle maggiori piattaforme. Pensi che l'incontro col Ministro, un intervento direttamente del Ministro, possa esercitare, come dire, una persuasione maggiore? Sicuramente penso di sì, anche perché due di queste piattaforme hanno dichiarato, no, dopo la firma della Carta, che sostanzialmente non hanno aderito proprio perché appunto il livello di contrattazione metropolitana per loro insomma era una cosa che diciamo non aveva senso, era troppo poco, ma che insomma sarebbe dovuto essere un livello di contrattazione nazionale. Quindi ora, come dire, che il Ministro ci ha ricevuto e si sta andando in questa direzione, speriamo che da una parte insomma non abbiano più scuse, dall'altra insomma che evidentemente il peso che ha insomma un governo è anche maggiore, no, rispetto a un'amministrazione comunale. Quindi su questo insomma siamo fiduciosi che possano finalmente sedersi anche loro al tavolo e si possa avviare appunto questo tavolo a noi, le piattaforme, il governo, per insomma riuscire a fare una legge nazionale fatta.